Alitalia ultimo atto, tra poche ore infatti la vecchia compagnia di bandiera andrà in pensione dopo 63 anni di servizio. Dalle 22 partirà lo stop tecnico di circa 7 ore degli aerei, mentre alle 6.10 di domani decolleranno i primi due voli della nuova società, da Malpensa per San Paolo del Brasile e da Palermo verso Roma Fiumicino. Nata a Roma il 16 settembre 1946 come Aerolinee Internazionali Italiane, la compagnia diventa Alitalia solo 11 anni più tardi, assorbendo la Linee Aeree Italiane. Il 5 maggio 1947 decolla il primo volo da Torino diretto a Roma e poi a Catania. A luglio 47 invece decolla anche il primo collegamento internazionale da Roma a Oslo. Mentre nel marzo 48 parte la prima tratta intercontinentale, un volo di 36 ore che da Milano raggiunge Roma e poi arriva a Buenos Aires facendo tappa a Dakar, Natal, Rio de Janeiro e San Paolo. Per Marco Ponti, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano, la storia della vecchia Alitalia presenta aspetti positivi e negativi. Sicuramente Alitalia dopo la guerra è stato uno degli elementi rappresentativi del riallacciamento dell'Italia sconfitta col resto del mondo. La cosa non tanto positiva è che i volatori italiani pagavano molto caro il monopolio, ma soprattutto la grande rivoluzione è avvenuta con l'Europa e con la liberalizzazione di parte dei voli e l'avvento delle compagnie low cost. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore.